Florida lo dico in messicano. Ah, ecco, perché tu sei messicano, no? No, no, però No, originariamente. rispetto della lingua, hai ragione, bravo. Non lo sapevo, va bene. Per cinema di Valerio De Paulis che ringraziamo. Valerio, ci sentiamo presto. Buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie infinite. Ciao ciao.